sì, io ci faccio i miei seguiti, ma tu non dico, non hai fatto problemi. Ma guarda, qua c'è che sono più male, però c'è che trovate tua moglie. Guarda, per le balle sotto. E come trovate la tua moglie, sono più male. Ma ti faccio un'attitudine alla persona. Come lo sono parlato di te, Claudio, guarda, me io mi sono cavato gli occhi. Ma qua si è accorto a metterci le mani addosso. Però non sto a errare, è tutt'altra persona. È un'altra persona, purtroppo è così, e sono comportato così, non ci può, non possiamo cambiare, no? Ma tutto sempre contatto, ripeto, ma io non sono una persona che c'è un pimballe. E vabbè, se il tuo carattere non lo devi fare, non ci possiamo fare niente noi. Sicuramente nessuno può cambiare, neanche tua moglie può cambiare. Però di persona sì, tutt'altra persona. Sono sempre contatto, lo ricordo sempre. E già lo so. Beh, ho finito dopo le balle. Adesso sono gli altri che hanno le balle a me. Te l'ho detto, non mi interessa più niente. Mi ha detto benissimo così. Prima ci tenevo molto di più e magari affrontavo i discorsi diversamente. Adesso li affronto con molta più calma, tranquillità, eccetera, eccetera. Comunque stavo parlando con Cosio, con Massimiliano. Massimiliano Bugliotto e con l'altro, e mettere una contratta a togliere quei 100 Hz, capite? Proprio una fesseria, non c'è problema, bisogna attaccare le prone per il rispetto, dispetto e toglierli. Quando lo vuoi fare anche a casa sua possiamo fare, non c'è problema. Claudio, ma tu mi vuoi dire, tu dice che vuoi, ma non riesco a capire perché è proprio lui, cioè lui. Ma sta, già 440. Radio Tribunale ti chiamo, cazzo, vuoi una cosa? Cioè, è una cazzata, ma appunto. Per me non è una cazzata. Tu domani sei, la domanda ti chiamo. Poi tu mi dai cosa fare. Come no, l'Italia si accorgi la Sicilia. No, ma una cosa te devo dire anche una cosa io, prima che mi dimentico. Prendi il portatile in mano che ti sto chiamando io. Ti devo dire una cosa. Benissimo, ma è possibile tenere, diciamo, nascosta sotto il tetto, ripeto, il tetto c'è solamente tegole, rete della struttura in legno, dunque non c'è nessun calcestruzzo, è libero. Ecco, questa antenna qua, messa in quel punto lì, sfoga come radiazione oppure deve essere per forza tolta fuori all'aperto per funzionare decentemente e non andare il problema all'apparato? La direttiva dal tetto dovrebbe avere almeno 4 metri di radiazione, quindi 4 metri di base, 4 metri di massa da terra, okay, che è il minimo, se vuoi che funzioni già, se poi vuoi che funzioni bene, benissimo, devi metterla come l'ho messa io, almeno a 40 metri d'altezza, siccome ho sfrutto il palazzo per 37 metri, mi sono sollevato solo altri 4 metri di palo. Questo è il funzionamento delle direttive. In ogni caso non rischiare niente per il momento, facciamo quello che dobbiamo fare e poi si vedrà. Sì, in conclusione mi sarebbe piaciuto avere stato un piccolo, tra virgolette, sogno, perché purtroppo non si può mettere, ma siamo un'antenna da due soldi con l'accidente e purtroppo preso non si può mettere, sai, avere quel tenna lì, cosa adesso c'è un segnale lontano, abbastanza lontano, perché era 27, è abbastanza limitato, no? Adesso vuoi comunicare con qualcuno che sa da dove cacchio sta modulando, c'è la possibilità di dirigerlo, punti lì e comunichi con lui, capito, grazie a questa antenna, solo questo piccolo spizio mi sarebbe piaciuto avere, basta, non di più, poi per il resto già sono contento, sono contento di poco, avevo avuto usato solamente per quel motivo lì, è lontano in casino, non lo prendo bene con l'antenna normale che ho, punto quella, la muovo per dire che ho track, posso comunicare con lui, tutto lì, solo che giustamente in vita non si può mettere, non voglio rischiare, dunque alla fine pasciscia. Ma infatti, non ci vuole solo la direttiva, ci vuole il rotore per farla girare, ci vuole il controbox sotto, visto lo usaccio sotto la scrivania, io dovevo piazzare, solo quel pacco dove c'è da piazzare ci sono 250 euro, quindi non è così facile, ci vuole il cavo di alimentazione per far girare il rotore, ci vuole un sacco di cose, tutto questione di denaro, infatti l'ho messo lì perché non ho ancora comprato il cavo di alimentazione, quello grosso da 2 mm e mezzo, anche perché non ho ancora l'autoscala, quindi adesso proprio stamattina ne parlavo con Luigi e mi ha detto di mettermi d'accordo con Pierpaolo, il figlio, e vediamo se riusciamo a, se riesco a farmi togliere il tappo dal pluviale, la prossima settimana monto il rotore alla direttiva, l'altra direttiva che ho, che c'è una direttiva a 9 elementi sul tetto, e 4 metri larga. La puntata a nord perché devo togliere il tappo dal pluviale e far scendere il cavo di alimentazione per far girare il motore, altrimenti cosa va a stare lì sul tetto, come sento qualcuno giro l'antenna, no, la devo comandare da sotto, no? Sì, quello sì, no, se no mi stava spiegando Pomponio, un vicino che ci aveva usato il motore del trigiratore di una macchina, poi se un po' di inventivo non ce l'ha, già riesce alla fine a trasformare dei piccoli oggetti, dai, a tuo piacimento, un po' di fantasia, un po' di materiale di recupero, ma andando non riesce a fare quello che vuoi, come il MacGyver, alla fine con due cose riesci a realizzarle, ecco, poi è stato quello il problema, per dire, si può risolvere anche con quello, perché questa antenna che sta vedendo io è lunga 2,70 m, dice in lunghezza 6 metri, mi sembra stanno 6 metri di radiali, quindi c'è scritto in questo libro, in questo Deplian, e riesce un pochettino a usarla con un motorino anche di macchina, qualche misera, riesce a muoverla benissimo perché è molto leggera, ecco, tutto lì, ma ormai c'è un po' di fantasia, un po' di materiale di recupero, riesci a fare quello che vuoi, solo purtroppo deve essere per forza pure d'altezza, se te la beccano ti mettono in galera, devi pagare una marca di soldi allo Stato e non ne voglio dare. Boh, vediamo cosa ne esce fuori dalla fine. Io me, non so se si dice che non rischiamo picca, quindi rischiamo tutti ogni giorno, perciò rischiare per un'antenna, no? Non ci sono problemi. Va bene, dai, continua a fare i collegamenti, io sono ascolto su 10, mi sto controllando la posta, sono già le 11:15. Tra un po' vado da Napoli. Sono su 10 comunque, fai pure anche me. Non c'è c'è nessun problema. Anche in Europa è uscito, chiamato uno stato molto bene. Ma infatti sono anche a casa sua, gli ho portato la documentazione, della fotocopia, e quella contenta a prendersi la macchina, che era appena appena più distante di casa sua. No, c'aveva problemi di cervicale, infatti ci vedeva che era mezzo rincoglionito, ammainato, mi alla sarda. No, c'era problemi di cervicale, dunque da stamattina che stiamo durando non è uscito per niente, poi è uscito, non solo a fare una visita a una persona, ha avuto un piccolo problema, e basta, sì, non stava tanto bene oggi. Sì, me l'ha detto, io sono uscito, sono tutte le sere, sì. E appunto me l'ha detto questa cosa. Va bene, allora passi in ascolto su canale 10, buoni collegamenti, a me mi trovi lì, sino a un po' ancora e poi va la nanna. A dopo, Antonio. E via, ti sentiamo.